Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Si può consumare e produrre secondo principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale? Mai come adesso la risposta è sì. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, lo scopriremo in questa nuova puntata di Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parleremo poi di un caso commerciale più unico che raro e per il focus sui trend della gentilezza come nuova strategia anticrisi. Provare per credere. Prima, come sempre, le notizie e curiosità della settimana. È Tokyo la città più cara del mondo. Lo rivela l'annuale classifica sul costo della vita stilata dall'Economist. Scivola al quinto posto Oslo, l'anno scorso in vetta. Ultima, Karachi. 14esima Milano, 29esima Roma. Sarà l'effetto Michelle Obama, ma ormai è chiaro che il prossimo inverno le donne, signore o signorine che siano, andranno in giro con braccia nude e gambe coperte. Quindi sì a collan 100 denari e leggings, abbinati ad abiti e perfino a cappotti senza maniche. Primo sì del Parlamento europeo alla proposta presentata dalla Commissione europea per una drastica riduzione del costo dell'invio di SMS. La proposta sarà votata ad aprile dalla plenaria di Strasburgo. Resterà aperto fino al 26 marzo a Milano il primo M&M's Temporary Store, dove personalizzare, con brevi messaggi, i confetti di cioccolato. La confezione sarà pronta dopo una decina di giorni. Stessa possibilità sul sito mymms.it. Chiuse i battenti negli anni 30 in seguito alla crisi del 29. Rinasce oggi, 80 anni dopo, durante un'altra crisi economica. È la casa di moda russa Irfe, fondata a Parigi nel 1924 dai principi Irina Romanova e Felix Yusupov. La boutique parigina aprirà entro la fine dell'anno, a Mosca invece nel 2010. Borse e scarpe realizzate con l'inconfondibile tessuto a righe di sdraio e lettini della Riviera Romagnola. Nasce dalla creatività dei designer Marco Morosini e Barbara Marcolini il marchio Brandina, dal nome della classica seduta da spiaggia. Primo negozio monomarca a Cattolica. La borsa della spesa. Consumare meglio per consumare meno è l'invito della sesta edizione di Fa la cosa giusta, fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, dove la moda diventa eco chic, il design sostenibile e il cibo a chilometri zero. Più oggetti di qualità e meno usa e getta, più gusto e meno cibo in scatola, aria più pulita e meno chilometri in auto, più vacanze intelligenti e meno low cost, mordi e fuggi. Sono i denominatori comuni di progetti, idee, soluzioni e prodotti in mostra a Fa la cosa giusta, la fiera del consumo critico che invita a consumare e produrre secondo principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale. Quale occasione migliore per cambiare le modalità produttive di consumo se non la crisi che stiamo attraversando a livello globale? Il cambiamento passa attraverso piccole scelte quotidiane che vanno dagli acquisti al modo di abitare, muoversi, comunicare, viaggiare. Tutto ciò tradotto in esperienze concrete significa commercio equo e solidale, finanza etica, mobilità sostenibile, agricoltura biologica, ecoprodotti, software libero, turismo solidale, bioedilizia, energie alternative, co-housing e housing sociale. E noi allora siamo andati a fare un giro fra gli stand a caccia di nuovi prodotti, idee e servizi. Allora, la Brompton è una bici pieghevole che si può portare ovunque, in macchina, sui mezzi, sul treno. Arrivata a destinazione se la apre e poi uno va, continua il suo percorso pedalando. È un piccolo blocco che ha più o meno 60 cm di altezza, 60 di lunghezza e 27 di larghezza. La versione più leggera pesa sui 9 kg, poi se si va ad aggiungere optional si arriva a 12,5 kg. Forse non tutti sanno che la cacca di elefante può trasformarsi in... Può trasformarsi in carta e in bellissimi fiori per le bomboniere. L'elefante produce 200 kg al giorno di materia prima, che viene raccolta, lavorata e poi vengono fatti questi bellissimi manufatti. Carta della pace è il nome che viene data a questa carta perché innanzitutto salva gli elefanti dall'uccisione. E vengono abbattute meno piante per la produzione della carta e soprattutto diventa anche una fonte di reddito per i contadini. Criminal Mouse, il gioco del carcere. È un gioco appunto ideato, proprio disegnato dai detenuti del carcere di San Vittore. È una sorta di gioco dell'oca, è molto carino e descrive un pochino la vita loro. Di solito la camera d'aria è più grande, quindi quella di trattore, di caterpillar, eccetera, eccetera, che a noi serve perché, essendo molto ampia, ci permette di tagliarla e poi, una volta lavata, assottigliata, questo materiale diventa la borsa, il schiccio nella sua parte esterna. Un oggetto al quale vogliamo ridare una seconda vita viene posizionato in questo cassonetto trasparente e con delle ante, di modo che qualcuno che passa e lo vede e è ovviamente interessato se ne può riaffezionare. Quindi il cassonetto, che è il luogo del rifiuto per eccellenza, diventa invece un punto di scambio. Quello che noi vogliamo diffondere è un nuovo modo di vivere il rifiuto, rifiutare con affetto, cioè in maniera critica e consapevole. Due supermercati concorrenti nello stesso spazio commerciale, praticamente confinanti, succede in Inghilterra e funziona, ci racconta Luigi Rubinelli, direttore di Markup. Forse i radioascoltatori ricorderanno che in una delle precedenti puntate abbiamo parlato di un importante trend che sta attraversando il commercio e i consumi. È il downsizing, cioè la riduzione nei negozi della superficie di vendita e dell'offerta, ma anche della riduzione del contenuto delle confezioni o della riduzione delle quantità acquistate. A Londra, Sainsbury, una delle più importanti catene del Regno Unito, ha dovuto, o torto collo, cavalcare questo trend, ma ne ha tratto beneficio. A Merton, nei sobborghi della capitale, l'insegna ha costruito un piccolo centro commerciale che ruota attorno a un suo ipermercato. Fino a 2 anni fa un ipermercato di ben 8.000 metri quadri. L'azienda sapeva bene che era sproporzionato rispetto al mercato potenziale, cioè al numero di cittadini che abitava nella zona, ma ha tentato lo stesso di sperimentare un nuovo formato commerciale. Dalla scorsa estate, però, la crisi economica e finanziaria, particolarmente dura in Gran Bretagna, ha fatto precipitare questa situazione. Sainsbury ha così dovuto tagliare ben 4.000 metri quadri di vendita e li ha destinati ad altre formule commerciali, ma non si è fatto avanti nessun operatore per molti mesi, fino a quando in autunno Marks & Spencer, una catena storica dell'Inghilterra, ha chiesto di affittare gli spazi lasciati liberi. Sainsbury ha tirato un sospiro di sollievo, ma adesso deve cercare di differenziare l'offerta, prezzi e promozioni dal suo rivale storico, perché entrambi sono nello stesso centro commerciale, anzi, sono esattamente confinanti. È un caso più unico che raro. Secondo voi le vendite di Sainsbury sono aumentate o diminuite? Il direttore del negozio sostiene che sono addirittura aumentate perché la competizione attira più clienti. Mai più senza. L'oggetto cult di questa settimana è un oggetto domestico esposto nei musei di tutto il mondo, tra cui il MoMA di New York. Ce lo descrive Silvana Annichiarico, direttore del Triennale Design Museum. La forma come eco, come archetipo, come destino. Per disegnare una pesciera, cioè un oggetto utilizzabile sia per cuocere il pesce al forno sia per servirlo in tavola, Roberto Sambonet, nel 1957, si rifà la forma marina per eccellenza, una conchiglia a due valve in acciaio che sembra legarsi a ciò che è destinata a contenere secondo uno di quegli antichi rapporti di somiglianza di cui ha parlato Michel Foucault in Le parole e le cose. La pesciera, ovviamente, può contenere di tutto, non solo il pesce. Le due valve, grazie a semplici cerniere, possono restare aperte in tre diverse posizioni o essere separate ciascuna per un suo uso autonomo. Ma si può anche decidere di sottrarre l'oggetto a ogni destinazione funzionale e di conservarlo nella sua purezza scenica ed estetica, come una scultura, dice lo stesso designer, ma come una scultura che può essere anche usata. Essere e avere. Bentornati in studio con Essere e Avere, seconda parte come sempre dedicata all'analisi delle nuove tendenze in compagnia di Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno. Oggi dedichiamo la puntata alla gentilezza. Vi chiederete cosa abbia a che fare con i consumi, la pubblicità, il marketing. Ebbene, ha molto a che fare, lo scopriremo appunto oggi. In questo momento di crisi si è sviluppato un vero e proprio dibattito intorno al tema della kindness, perché, dicono gli analisti, anche negli affari è finito il tempo del capitalismo rampante, del cosiddetto gene egoista. Per superare il credit crunch servono nuovi comportamenti, tra i quali appunto la gentilezza, da cui derivano poi condivisione, rispetto per l'ambiente e per gli altri, sostegno ai più deboli, tutti concetti laicamente intesi, e così prodotti, servizi, modelli di business e di comunicazione si adeguano. Patrizia. Perché si è buoni e gentili è la domanda, che non è per niente ingenua né tantomeno inutile, intorno alla quale molti studiosi hanno cercato e trovato risposte non ovvie, dato che appunto siamo naturalmente egoisti e competitivi. In Doing Good or Doing Well, articolo in uscita proprio nel numero di marzo di questo mese sull'autorevole American Economic Review, tre ricercatori hanno analizzato le ragioni che spingono le persone a essere gentili con gli altri spendendo denaro per loro. Nell'ordine le risposte sono state: per ottenere una riduzione delle tasse, per la gratificazione di essere ringraziati, per puro altruismo, terzo posto, e infine per mettersi in mostra. Scopriamo quindi che le buone azioni pagano, come si dice, e ecco perché si può parlare con un apparente ossimoro di altruismo opportunistico o anche di gentilezza conveniente. Questi temi sono peraltro legati all'economia del dono, alle teorie win-win, dove collaborando tutti vincono, eccetera. Per esempio, in ambito manageriale, l'esercizio della leadership pare risulti molto più efficace se combinata con la gentilezza, arma molto potente che rende i leader più influenti, come ci dicono i già molti manuali americani usciti nell'ultimo anno sul tema. Vedi Leading with Kindness, cioè gestire la leadership usando la gentilezza, e ancora The Power of Kindness, il potere della gentilezza. Questo concetto è stato usato da Nokia nel 2008, e qui parliamo di comunicazione e marketing, per il concorso Nokia Mobile Filmmaking Awards, un premio dato ai partecipanti che hanno creato video di 2 minuti intorno all'idea guardare il mondo con gli occhi degli altri su 2 temi assegnati, che erano proprio un atto di gentilezza e qualcosa che fa sorridere. Anche lo spot della Fondazione Sorrento, in onda l'anno scorso, comunicava lo splendore della scogliera attraverso la gentilezza delle persone. Per la promozione turistica, diciamo, non sorprende il ricorso alla kindness, è abbastanza inedita la sua comparsa in maniera esplicita nel mondo dei videogiochi. Akoa.com, con l'H prima della A, è il primo social reality game, un gioco che consiste in missioni da compiere molto precise, che sono regalare 1 ora di tempo, donare un libro, pagare un caffè, regalare del cioccolato. La cosa interessante è che le missioni sono reali, cioè il gioco parte online, ma è offline, cioè nella vita quotidiana, che le missioni vengono compiute con un sistema di card prepagate da $5 l'una, che vengono cedute a chi si vuole. Lanciato a dicembre 2008, a Akoa.com, già a gennaio aveva più di 2.000 missioni compiute in 33 paesi diversi. Nel corso dei secoli la gentilezza è stata celebrata da pensatori e scrittori, ecco come lo hanno fatto quelli che abbiamo scelto. La gentilezza, disse l'imperatore e filosofo Marco Aurelio, è la delizia più grande dell'umanità. Nel 1741, in un'epoca in cui stava maturando la convinzione che l'egoismo fosse il vero motore dell'umanità, il filosofo scozzese David Hume scrisse che la rinuncia alla gentilezza priva gli esseri umani di un piacere fondamentale per il loro senso di benessere. Quasi un secolo dopo, anche un insospettabile come Charles Darwin, il beniamino degli individualisti moderni, rifiutava l'idea che l'umanità fosse egoista e ipotizzava l'esistenza di istinti altruisti altrettanto forti. La tendenza alla solidarietà è innata, sosteneva lo scienziato nell'origine dell'uomo, ed è un fattore chiave per il successo evolutivo dell'umanità. Patrizia, per anni invece la gentilezza è stato un sinonimo di debolezza che genera in alcuni casi anche una certa diffidenza, soprattutto negli affari. Sì, che la gentilezza sia nel vissuto comune sinonimo di fragilità lo sostengono gli autori, per esempio, di Elogio della gentilezza in uscita a maggio per Ponte delle Grazie, perché dicono che l'essere gentili contraddice in maniera istintiva l'essere indipendenti e autosufficienti, condizioni comunemente ed erroneamente associate invece alla forza. Le cose non stanno proprio così, lo vediamo da molti dati, molte iniziative, molti comportamenti diffusi. Random Acts of Kindness è non solo un libro ma anche una comunità web, un movimento molto diffuso, actsofkindness.org, che incoraggia appunto buone azioni da fare quando capita, dalla segnalazione di idee per introdurre più gentilezza nelle nostre vite, soprattutto lavorative, a, diciamo, indicazioni molto minime, quindi baci, abbracci, pacche sulla spalla, sorrisi, complimenti, ma anche cose più inedite quali non interrompere, ascoltare di più, regalare un po' di silenzio. La cosa interessante è l'aggettivo che viene sempre usato per qualificare gli atti di gentilezza in questo movimento, in questa web community, che è l'aggettivo happy. Come dire, niente forzatura, facciamo tutto questo, ma deve essere autentico per essere percepito come tale. Passando al mondo dei consumi, è interessante il caso di una grande azienda italiana, la catena di ipermercati Leclerc Conad, che riconosce un valore economico ai gesti benevoli con due diverse iniziative fatte l'anno scorso. Un dono a chi dona, promossa in partnership con Avis. A Modena, ai donatori di sangue veniva offerto un buono sconto del 10% sulla spesa e 20.000 sono stati i buoni utilizzati in tutti i punti vendita della provincia. Di nuovo, dire, fare, differenziare, questa volta Leclerc in partnership con Hera, un ente locale energia, risorse e ambiente, sconti per chi è gentile con il pianeta, quindi ha premiato, ringraziando per la cortesia, chi conferiva alle isole ecologiche itineranti rifiuti differenziati, cellulari, batterie. Il premio consisteva in 5 euro di sconto su una spesa di minimo 40. La gentilezza passa anche attraverso nuovi modelli di socialità urbana, modelli ai quali si ispira la Giornata Mondiale del Saluto celebrata per la prima volta a Torino nel 2008. Per saperne di più abbiamo in collegamento l'ideatore Giacomo Portas. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. La Giornata del Saluto che abbiamo fatto a Torino per la prima volta il 2 ottobre ha coinvolto circa 15.000 persone. Era molto semplice partecipare. Nei nostri preparativi di comunicazione per questa giornata erano semplici: chiama una persona che non senti da tanto tempo al telefono, saluta le persone che conosci anche solo di vista, e poi avevamo coniato una moneta con scritto sopra vale un saluto, e parlando dei mercati con le persone nei mezzi pubblici invitavamo le persone a scambiarla tra di loro. È stata un'iniziativa molto simpatica, carina, e tante persone di torinesi che pensano sia una città fredda, poco, diciamo, avessi al saluto, a fare nuove amicizie, invece hanno risposto molto bene. Ecco, voi avete fatto un calcolo semplice: 10.000 volontari incaricati di salutare almeno 10 sconosciuti, prima di sera 100.000 saluti, insomma, sì, è stato, sì, così. È un messaggio simile a questo. Poi chiaramente con dei comunicati, ricordando che negli anni 70 le persone mediamente a Torino salutavano da 30-40 persone al giorno. Era più facile fare amicizia. Oggi siamo scesi da una ricerca a 8 saluti al giorno, 8 buongiorno, 8 ciao al giorno. Nelle città il saluto è diventato una merce rara? Una merce rara. Fare amicizia è diventata una merce rara, mentre invece adesso ce ne sarebbe veramente bisogno. I dati negativi della crisi sono conosciuti a tutti, ma possono avere anche dei dati positivi. Dei dati positivi, quello di ritornare all'educazione. Noi nella seconda giornata del saluto faremo anche l'esperienza delle ronde del Galateo, che sono fatte da noi, dai consiglieri comunali che aderiscono al nostro movimento, per spiegare alla gente che è bello, ai ragazzi specialmente, è bello, non so, lasciare il posto a sedere a un anziano nel mezzo pubblico, nel tram, nel bus, oppure non fare troppo rumore la sera o non buttare per terra le cicche di sigarette e tante altre cose. Dunque, data già fissata per quale giorno? Il 16 maggio a Torino. Grazie a Giacomo Portas per essere stato con noi. A lei, arrivederci. Cosa c'è di nuovo a Oggi la segnalazione delle nostre Urban Watcher di Memi arriva dall'Irlanda del Nord, terra da anni alla ricerca del cambiamento, un cambiamento purtroppo ostacolato da chi cerca la soluzione nella violenza, come dimostrano purtroppo le notizie di questi giorni. Ecco invece che cosa ci racconta Giulia Marzagalli. Bentornata Giulia. Sì, buongiorno a tutti. Oggi vi racconto di Cameron, un eccentrico 18enne irlandese, come lui stesso ama definirsi, il cui sogno è quello di cambiare il mondo, ma non in maniera plateale, bensì attraverso piccoli gesti quotidiani, attraverso quelli che lui stesso definisce degli atti randomici di gentilezza, ovvero Act of Randomic Kindness, espressione il cui acronimo ARC costituisce non solo un modo per indicare queste azioni disinteressate, ma anche il logo di una linea di abbigliamento. Sì, perché l'idea consiste proprio in questo. Cameron ha creato una compagnia che vende su internet magliette polo, la cui etichetta, oltre al logo, riporta anche il payoff Change Your World, ovvero cambia il tuo mondo, che non è però un semplice slogan, ma un esplicito invito a chi indossa quella maglietta a compiere un gesto, anche apparentemente banale, di gentilezza verso il prossimo. Un piccolo gesto, un arc ogni volta che si indossa quella maglietta, che funge così da promemoria per questi casuali atti di altruismo. Per le iniziative filantropiche più impegnative, soprattutto da un punto di vista economico, Cameron garantisce inoltre la propria disponibilità a collaborare, mettendo a disposizione i profitti derivanti proprio dalla vendita delle magliette, il cui costo è di 28 sterline. Perché quello che conta non è il guadagno, come lui stesso dichiara, ma amare, amare tutti per vedere anche la propria vita cambiare. Grazie Giulia, dunque un'occasione per cambiare. Patrizia, possiamo far rientrare a pieno titolo il tema di questa puntata nel capitolo quello che di buono può portare la crisi? Scomoderei due Nobel per una riflessione finale su crisi e gentilezza. Il banchiere dei poveri, Muhammad Yunus, che istituzionalizzando, come noto, i piccoli prestiti, ha creato lo sviluppo economico e sociale dal basso, trasformando altruismo in business, e anche il Dalai Lama, che ci ricorda i meriti spirituali che ci aspettano per l'espressione di generosità, di gentilezza e di sacrificio a favore degli altri esseri, tutti, umani e non. Essere avere @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica per le vostre idee, i vostri suggerimenti. Vi aspettiamo ogni domenica dopo il GR delle 13, in replica il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.